Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 8 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Eduradio TV, il programma che, come sapete, fa da ponte tra il carcere e la città. E come fa da ponte? Raccontandovi le notizie che parlano di carcere, che parlano della cittadinanza, cercando di creare una specie di relazione tra il mondo di dentro e il mondo all'esterno. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma con la mia carissima collega Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Allora, le notizie di oggi, notizia bella, dai, parliamo di sport. A Marino del Tronto si riaprono i cancelli per il mio campo libero. Lo leggo da piceno.news24.it perché dopo la pausa estiva è ripartito il progetto Il mio campo libero, un progetto del Centro Sportivo Italiano, organizzato e promosso all'interno del carcere Marino del Tronto dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno con la solerte e competente collaborazione del tecnico Valentino Disidoro. Questo è un progetto che si rinnova ogni anno e in questi anni del Covid trova maggiore valenza nella sua presenza attraverso il rispetto del protocollo anti-Covid. Quindi devo dire veramente complimenti, si sono messi avanti anche con un protocollo anti-Covid per cercare di non far finire l'attività che naturalmente mette in limite a tutte le attività che prevedono attività in presenza, ecco. E la Costituzione dice che il detenuto debba espiare la pena, ha detto il presidente del CSI di Ascoli, Antonio Benigni. Ma la detenzione deve essere un momento di crescita e non di regressione. Lo sport è un grimaldello che permette di rompere certe catene. Lo sport è anche un insieme di regole, di forza, disciplina e quindi portare i principi dello sport all'interno delle carceri, secondo il presidente del CSI, significa dare alle carceri uno strumento di crescita civile. E lui dice che sono anche i principi che animano il loro progetto. Ogni anno, sempre in accordo con la direzione del carcere, cercano di essere uno strumento per contribuire a rendere fattibile quel processo di crescita civile che tutti auspicano in contesti di privazione della libertà personale. Sicuramente lo sport rende migliori tante cose, migliori le persone, ma anche lo stare con gli altri, insomma non c'è solo il benessere del singolo. Tra l'altro Caterina, mi è venuto in mente che per Pillole di Antigone abbiamo mandato in onda l'Atletico Diritti di Rebibbia, la squadra femminile di calcio, che ha avuto anche un grande successo. Ma appunto non è un benessere solo del singolo, giusto? No, assolutamente, l'attività sportiva è un elemento positivo per contribuire certo al mantenimento di uno stato di salute del singolo soddisfacente e anche salute psicofisica, ma anche per migliorare la convivenza all'interno degli istituti, contribuendo così ad abbassare, pensate voi, i livelli di tensioni, di conflitto, di ansia. In quest'ottica l'impegno del CSI è quello di non fermarsi soltanto alle persone detenute, ma di contribuire anche al benessere di tutta la popolazione carceraria. Per questo sta lavorando insieme ai suoi collaboratori tecnici per un programma sportivo annuale rivolto anche a tutta l'amministrazione penitenziaria e anche coinvolgendo quindi anche gli agenti di polizia penitenziaria per favorirne il benessere psicofisico. E quando tu mi parli del progetto di calcio a 5 delle ragazze di Rebibbia, allora io ti parlo di un progetto di cui ho sentito parlare da due ragazzi della Dozza di calcio a 5 sempre, quindi il calcetto fondamentalmente, ed è una bellissima cosa sempre per portare un po' di benessere psicofisico e di collaborazione e anche di conoscenza di squadre diverse, perché si tratterebbe sono le squadre di universitari fondamentalmente che si incontrano sul campo e anche per permettere uno scambio tra esterno e interno, e hanno chiamato questa squadra Redemptum. Quindi c'è tanto dietro, c'è anche una ricerca di un riscatto personale, e io voglio tanto ringraziare chi mi ha parlato di questo progetto. Si chiamano Paolo e Donald e un grande saluto a loro, e vi dedico questa canzone We Are The Champions, perché per me siete veramente dei campioni per aver proposto tutto questo. A fra pochissimo. fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Eccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Siamo sempre con te, Antonella, il venerdì animalesco, l'abbiamo chiamato noi ormai da alcuni mesi, perché Eduradio parla anche degli animali, degli amici a quattro zampe e non solo, anche amici striscianti, vero oggi? Amici striscianti, ma non solo, perché Caterina, io ti ricordo che una volta mi hai detto perché non parliamo dei serpenti, ma io non volevo circoscrivere l'argomento solo ai serpenti, allora ho pensato agli animali a sangue freddo, perché nel mondo animale ci sono diversi modi in cui le specie assicurano la loro sopravvivenza. L'adattamento agli ecosistemi è ovviamente fondamentale. Anche in ambienti simili, ogni individuo sviluppa dei meccanismi per garantire la propria esistenza che sono diversi dagli altri. E una di queste classificazioni più comuni divide rettili e anfibi come animali a sangue freddo rispetto ad altri rappresentanti della fauna selvatica che identifichiamo come mammiferi, cioè a sangue caldo. Ma allora, piccola chiarimento, come mai li chiamiamo a sangue freddo? Li chiamiamo a sangue freddo perché c'è una termoregolazione non automatica rispetto ai mammiferi, cioè il sistema di regolazione del corpo funziona in modi diversi. Animali che regolano la loro temperatura corporea in base all'ambiente, in contrasto con gli animali a sangue caldo, la cui temperatura dipende in gran parte dalla temperatura dell'ambiente in cui si trovano. Anche noi ci termoregoliamo così, no? Se fa caldo sudiamo, se fa freddo ci copriamo sostanzialmente. E gli animali a sangue caldo sono noti come animali endotermici, mentre gli animali a sangue freddo sono chiamati animali esotermici. E gli animali a sangue freddo usano diversi meccanismi per sopravvivere, per adattarsi all'ambiente e mantenere i loro corpi alla temperatura ideale. Adesso te ne elenco qualcuno, giusto per capire che ce ne sono veramente tanti e diversi. Per esempio, usano gli elementi che l'ambiente offre loro, come sdraiarsi al sole, pensa alle lucertole per esempio, nuotare verso nuove acque, ricoprirsi di terra o di sabbia. Oppure i loro vasi sanguigni si dilatano e si contraggono più facilmente rispetto alle specie endotermiche e grazie a questo si adattano più rapidamente ai cambiamenti. I loro corpi contengono più enzimi responsabili della reazione a varie temperature. Oppure la maggior parte delle specie può avere degli organi interni più semplici e in questo modo consumare meno energia. Anche l'aspettativa di vita è diversa, ci sono delle specie che abitualmente vivono molto meno degli animali a sangue caldo, addirittura qualcuna solo poche settimane. Alimentazione, sono animali che sopravvivono più facilmente degli animali a sangue caldo in ambienti in cui il cibo scarseggia, perché hanno bisogno appunto di meno energia. Poi ci sono i bisogni fisiologici che sono minori e anche lo stato di riposo è molto importante perché loro entrano in una sorta di letargo, consumano meno energia e riducono al minimo le esigenze. Allora, sulla base di tutte queste caratteristiche, riusciamo a capire quali sono i principali animali a sangue freddo? Tu non te li immagini, ma anche il rospo comune, bufo bufo, che conosciamo un po' tutti, è una specie diffusissima in Europa e in parte nell'Asia, anche lui è un animale a sangue freddo. Lo troviamo nei prati, nei boschi, nei parchi, negli ambienti urbani, eccetera. Durante le giornate calde il rospo comune rimane nascosto tra l'erba e nelle aree fangose, così si confonde e si raffredda. Poi c'è il famoso drago di Komodo, che è un rettile endemico dell'Indonesia, quello spaventoso, enorme, che misura 3 metri e sorprende per le sue grandi dimensioni e le sue abitudini alimentari, che in effetti predilige le carogne. Quindi, insomma. Poi c'è il coccodrillo del Nilo, che abita le acque e le rive dei fiumi africani. Poi c'è la tartaruga imbricata, che è una specie di tartaruga marina che abita nell'oceano Atlantico Pacifico Indiano, che tra l'altro è nella lista rossa perché è un animale in via di estinzione. Poi c'è, eccolo, guarda, il serpente. Volevi il serpente? Cioè, volevo. Il serpente a sonagli orientale. Il Crotalus adamanteus, che è un serpente che si trova negli Stati Uniti, come nella maggior parte di questi serpenti di questo genere, ha un sonaglio all'estremità della coda. E poi c'è anche l'anaconda, che è un altro animale vertebrato a sangue freddo, tipico del Sud America. E poi che cosa c'è ancora? Ah, c'è un animale piccolissimo a sangue freddo, la formica proiettile. Pensa che questa specie è diffusa in diverse aree del Sud America e il suo morso velenoso è più doloroso di quello di una vespa. Poi ci sono i grilli, le locuste, lo squalo bianco addirittura, il pesce luna, anche un tonno, il tonno rosso. Per cui, guarda, ce ne sono veramente tantissimi, non li nomino tutti. Però, proprio per lanciare un pezzo che abbia un senso con tutto questo, tutti meritiamo di sognare We Deserve to Dream di Xavier Rudd. Ascoltiamolo insieme. Whisper in the wind sent me home. I'd believe there was something more. Learned so much, fell in love with you. Took my chances with what I knew. With the places that had stained my hands and the files that I'd stored on my shelf. Spent so long in the world giving chase. Thought my place was some other place. But I belong here, I belong with you. And all of our questions belong here too. As we've been high, darling, we've been low. And all of it's helped us grow. We belong here and we deserve to dream. Discussions in my brain. I don't know the answer, and I don't know the truth, and I don't really know what I've been dragging since my youth. But I push on, I philosophize, and keep my prophecies by my. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro di Radio e TV. Continuiamo già da alcuni giorni il flusso di questa chiacchierata lunga con il nostro garante comunale di Bologna, Antonio Iagnello. Buongiorno e bentornato. Bentrovata. Sempre sulla sua relazione annuale sull'attività svolta per l'annata 2020-21, un'annata molto molto particolare effettivamente, soprattutto per le carceri. Ma qui facciamo il punto su quello che è un altro carcere della nostra città di Bologna, il carcere minorile del Pratello. Quali sono le novità, se ci sono, e se anche ti chiedo se ripartirà la loro attività Brigata del Pratello, che è un unicum in Europa di un'attività di ristorazione presente all'interno di un carcere minorile. Allora, grazie per la domanda. Sicuramente con riferimento al carcere minorile ci sono state delle novità sicuramente molto positive con riferimento a quello che è stato l'andamento del percorso educativo dei ragazzi. E c'è una novità che di qui a brevissimo, diciamo così, irromperà anche in quella che è la vita della città di Bologna, che per certi versi mi preoccupa un po' di più. Partiamo prima dal dato preoccupante? Prima le brutte notizie, ma partiamo da lì. A livello di dipartimento competente è stato previsto che dal primo di ottobre sino a fine anno si andrà verso una progressiva apertura del secondo piano detentivo. Quindi si passerà da un'attuale capienza regolamentare di 22 ragazzi sino a giungere a fine anno a 36 ragazzi. In un contesto che mi preoccupa nella misura in cui questo ampliamento interverrà in una situazione nella quale pare che le cose stiano funzionando piuttosto bene, e vi dirò perché, e quindi mi ricollegherò in questo modo anche a quelle che poteva essere la buona notizia, le buone notizie che potevo rappresentare. Anche durante l'emergenza sanitaria pare che, come dire, i risultati conseguiti dai ragazzi possono anche essere letti in questo senso, pare che sussistessero tutte le condizioni, fossero presenti tutte le condizioni proprio perché i ragazzi potessero aderire alle attività educative con una discreta serenità, perché anche durante l'emergenza sanitaria, per esempio, ci sono, quindi già andando nel 2020, ci sono stati due ragazzi che per la prima volta nella storia dell'Istituto Penale Minorile hanno conseguito il diploma alberghiero. Dopodiché questi ragazzi, quindi già questo dà l'idea che probabilmente fra tutto lo staff operativo, fra le varie aree operative all'interno dell'Istituto Penale Minorenni, si sia creato un equilibrio tale per cui appunto i ragazzi, diciamo così, possano in maniera più o meno serena davvero dedicarsi a quello che dovrebbe essere il loro, ad acquisire quegli strumenti che potranno consentire il reingresso nella società appunto in maniera molto molto più responsabile. Ragazzi che poi si sono iscritti all'università, quindi è stato siglato anche un protocollo fra Istituto Penale per i Minorenni e Università di Bologna, e nel frattempo tutta questa serie di, diciamo così, esperienze positive verosimilmente ha anche creato, come dire, un circolo che potremmo definire virtuoso, perché l'esempio di questi ragazzi ha poi comportato che anche altri ragazzi, anche durante questo anno scolastico, sono riusciti a conseguire diploma, e già ci sono tutta una serie di ragazzi che appunto si stanno chiedendo informazioni e comunque sia si stanno predisponendo, diciamo così, per affrontare anche corsi universitari. Questo in una situazione appunto che prevede al momento 22 ragazzi presenti, e magari talvolta ci possono essere naturalmente alcuni sforamenti, no? Può essere episodicamente anche sovraffollato l'Istituto Penale per i Minorenni. La mia preoccupazione da garante è che se si dovesse arrivare a 36 ragazzi, al netto che si possa davvero riuscire a mantenere questa capienza, che cosa potrebbe succedere con riferimento a quello che è il delicato equilibrio organizzativo, che però anche, come dicevamo, dato la possibilità di conseguire anche importanti risultati con riferimento a quelli che sono i percorsi dei ragazzi. Davvero riusciremo a garantire, alla luce di quella che è un istituto vecchio, no? Ci sono delle criticità strutturali, no? È un vecchio edificio storico, antico edificio storico riadattato ad uso carcerario. Quindi riusciremo a garantire attività trattamentali per tutti i ragazzi, alla luce magari di un organico che magari non verrà incrementato con riferimento agli operatori penitenziari, ma anche alle figure educative. Ecco, questa è la preoccupazione che per certi versi ho anche formalizzato al Dipartimento Centrale. In brevissimo, per quello che riguarda questa bellissima attività della Brigata del Pratello, riaprirà? Le date ci sono? Allora, naturalmente questo è un tema piuttosto delicato, perché sappiamo sicuramente l'emergenza sanitaria ha, diciamo così, tagliato le gambe a questa straordinaria esperienza che aveva già iniziato ad aprirsi alla città di Bologna. C'erano state fatte già alcune, come dire, iniziative, dove ad una di queste avevo partecipato io, no? Ci eravamo regati un numero ristretto di persone a cena sostanzialmente dai ragazzi che lavoravano fra sala e cucina. C'erano, questo è emerso dal confronto con il direttore del carcere dell'Istituto Penale Minorile, tutta una serie di eventi che erano già stati programmati. C'erano tutta una serie di, come dire, serate già programmate, poi si è abbattuta anche sulle vicende dell'osteria formativa l'emergenza sanitaria. Questa è un'iniziativa che ha visto coinvolti diversi partner, ma sicuramente si è riuscita a portare a casa perché c'è stata una forte volontà da parte della direzione del carcere, che credo stia semplicemente aspettando che ci possano essere condizioni sanitarie tali da riconsentire l'apertura. È un progetto nel quale si crede molto e credo che nel momento in cui dovesse riaprirsi la città ci metterà davvero ben poco a diventare patrimonio di tutta la città di Bologna. Un'ultima domanda, proprio in brevissimo tempo. Tra le iniziative a cui lei ha partecipato nell'annata 2020-21, per ben due volte è citata Eduradio per le attività, le relazioni svolte anche con noi. E come pensa possa essere implementato questo programma anche per il futuro? Ho fatto riferimento in sede proprio di discussione della relazione, diciamo, ciò che di buono, se mai possiamo parlare in questi termini, aveva portato l'emergenza sanitaria. Sicuramente l'esperienza di Eduradio è stata qualcosa di particolarmente positiva. Per inciso, anche con riferimento alle varie attività, la cattiva notizia è che, per esempio, adesso anche forse riusciranno in un modo o nell'altro a organizzarsi, però è terminata l'associazione dell'associazione Mozart, che curava il coro Papageno presso la casa circondariale, il progetto Leporello presso l'istituto penale minorile e poi aveva una grande attività anche nelle strutture ospedaliere. Con riferimento a quella che è l'esperienza di Eduradio, con la quale, diciamo così, siamo sempre rimasti in comunicazione sin dalle origini, pur no, nei limiti di quello che poteva essere il mio mandato, io credo che anche con riferimento a questa, come dire, maggiore visibilità che voi siete riusciti ad ottenere grazie al vostro lavoro, no? E quindi anche alle connessioni istituzionali che siete riusciti ad attivare. Questa maggiore visibilità anche con questo respiro regionale, no? Quindi con riferimento a quanto accade anche o alle collaborazioni che possono essere strutturate anche con riferimento alle altre sedi penitenziarie, io spero davvero che voi possiate riuscire a mantenere sempre alta l'attenzione delle istituzioni che avete coinvolto sin dal primo momento, anche perché credo che sul piano istituzionale possano non mancare momenti di attenzione, ecco. E poi sicuramente sarebbe molto importante, ma anche diciamo così, questa via passa necessariamente dal dialogo che voi avete già attivato con le varie istituzioni, potrebbe davvero essere importante riuscire anche a coinvolgere direttamente persone detenute in quelle che possono essere le vostre attività, in quello che può essere la programmazione della vostra scaletta, ecco. Grazie, chiarissimo, è una speranza che abbiamo anche noi, quella di raccogliere le voci dei detenuti, magari prima in misura alternativa alla pena, anche in esecuzione penale esterna, e poi magari di fare un programma all'interno. Ce lo auguriamo già da diverso tempo, speriamo che possa realizzarsi sul serio. Io intanto, Garante, la ringrazio per tutta questa lunga chiacchierata con noi tutta la settimana. Ricordo sempre ai nostri ascoltatori Tra la città e il carcere di scriverci e quindi di scriverle, perché le gireremo le lettere, redazione liberidentro@gmail.com, e ancora un brano musicale prima dei saluti finali. A presto e grazie. Grazie a voi, in bocca al lupo. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do what I've done, to shun the house in Charming Town. They call the rising sun. E anche oggi siamo giunti ai saluti di fine puntata e vi ricordiamo le nostre consuete rubriche. Tra poco, se ci seguite sull'Epida TV ore 13.30 e in replica alle ore 17, come anche su Tele Tricolore ore 17, abbiamo Islam, religione e civiltà e ginnastica da camera a seguire. Domani abbiamo le parole della parola a cura della Cappellania della Dozza, la rubrica di buddismo e a seguire il Teatro del Pratello con un epistolario teatrale veramente molto interessante che è però in replica, è una delle puntate più belle che hanno fatto per noi quest'anno. Domenica abbiamo Chef al Fornelletto, come ogni domenica, e a seguire Note Libere, che anche questo è un programma in replica che avete ascoltato a gennaio di quest'anno che vi riproponiamo sempre per ascoltare della bella musica con noi. E vi ricordiamo di scriverci a redazionelibridentro@gmail.com e come al solito da me, da Antonella Cortese, da Enea Flacco, un saluto carissimo e a lunedì. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.